called Katie left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. My baby long, great gosh, my baby tall. And my baby she long, my baby she tall. We sleep with her head in the kitchen and our feet out in the hall. Incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. E buonasera e benvenuti alla 24esima puntata di Fuoco alle Polveri. Eccoci qua. Ciao Luca. Come al solito, tutti i lunedì siamo qui. Tutti. Yeah. Da quasi. 24. Primo maggio no, quindi sono 24 lunedì di fila, comunque tranne uno nel mezzo. È roba comunque, se ci pensi. Tanta roba. Senti, siamo... Oggi puntata densa di... Densa, anche, un po' di musica densa. Un po' densa. No. Densa di chiacchiere, ma anche di interviste, ragionamenti, insomma... Rimanete collegati, mi raccomando. Già che ci siete. Bombatini, già che ci siete. Sì. Salutiamo tutti già ancora? Quelli sì che sono qua, ma non diciamo chi sono. Però c'è un sacco di gente con noi. Siamo molto contenti. Vuoi iniziare con il tuo solito? Sì. Allora, 24 come la 24 ore di Le Mans, la gara automobilistica in onore della nostra... A Maldonado non si guarda in bocca. Sì. Che bisogna vedere quanto durerà ancora, ma... A me foga, sinceramente. Certo. Perché non conosco veramente niente di quello sport capitalista. Sì, vabbè. Aspettiamo tanto. Poi, vediamo un po' se arriverà. Parliamo il nostro... male adesso che non c'è ancora. Esatto, il magari nostro... non ci stanno nemmeno ascoltando, quindi possiamo parlare male. Però, per esempio, il nostro speaker che ci racconta spesso delle macchine ci potrebbe raccontare come funziona la 24 ore di Le Mans, che è una gara importante, ma io non so nemmeno dov'è Le Mans. Guardo dal tuo computer ed è in Francia. E dicevamo, a parte 24 ore di Le Mans, a parte le stronzate, siamo partiti anche per questo lunedì. Sì, questo lunedì è il lunedì che anticipa il primo, cioè l'ultimo lunedì prima di un evento che ci interessa molto e che è il festival di seconda edizione del Festival della Letteratura Sociale, che si svolgerà questa settimana in Polveriera, quindi da giovedì a domenica. Ci torneremo sopra spesso, parleremo un po' di questo, sia con un po' di persone che ci vengono a raccontare qualcosa, e sia tra di noi, sia ascoltando qualche contenuto esterno. E niente, fugheremo ogni dubbio. Sollazziamoci un bel pezzo. Sì. Anche perché poi parliamo subito di musica, di ska, di ska, reg, sì. Insomma, una cosa mista. Wombat. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Salve. Ottimo sottofondo. Ottimo sottofondo. Aspetta, facciamo partire. Molto bene. Hey, hey. Allora, eccoci qui con l'intervista che vi abbiamo promesso poco fa. Sono qui da noi, siamo felicissimi. Attenzione. Di ospitarli. Gli Ivanoska. Ciao a tutti. Viva, ciao ragazzi. Ciao. Ciao Guido, ciao Neri. E benvenuti a Fuoco alle Polveri. Grazie mille. Siamo molto contenti, siete qui per un'occasione, insomma, particolare. Beh, sì. Diciamo che dopo un botto di anni di attività abbiamo deciso di registrare un EP. Viva! Viva! Sì, abbiamo avuto questo coraggio e il 25 aprile lo abbiamo presentato in Santo Spirito, che ci sembrava appunto l'occasione migliore per farlo. Sì. Lo era? 5 pezzi d'amore, disco omonimo, e non è un album, non è un CD, in teoria non è neanche un EP perché l'EP serve per promuoverti, noi sì. Siamo promossi e bocciati automaticamente da un pezzo. Da un po' di volte magari. Quindi nulla, l'abbiamo fatto più per il pubblico e ovviamente anche per noi, perché alla fine non avevamo nulla di fisico di registrato, e ringraziamo se possiamo appunto il Relaxo Studio che ha avuto la pazienza di tenerci penso 5 mesi per fare un EP, roba che neanche, no, non c'è nessun artista al mondo che ha mai registrato un EP in così tanto tempo. E nulla, siamo veramente felici, sì, del lavoro. Anche soddisfatti, quindi? Parecchio, sì. Ottimo. Ma è il primo, quindi è la prima cosa registrata? È la prima cosa registrata decente. Okay. Abbiamo provato a farlo tempo fa, ma in 8 non è facile. No, siamo una orchestra ormai e non è per nulla facile. Ci credo. No, ci vuole una strumentazione per registrare. Ci vuole tempo, sì, è tempo. Io sì. Ti dirò, quando avete suonato tempo fa in Polveriera, io vi registrai per cercare di mandarvi in radio. Col ma telefono, magari. Col telefono, esattamente. Ma ho detto no, se no gli fa uno spregio. Tutte le volte ci proviamo, poi riascoltiamo e diciamo no, non si può fare. Ora vi assicuriamo però che quella sera è stato, penso, uno dei concerti più divertenti di tutti, ma perché dava effettivamente lo spirito di quello che deve essere un gruppo che si un po' rifà a quella che è la militanza, al sostegno. Certo. E quindi sì. O no? Sì. No. Stiamo dal concerto. Siamo tutti d'accordo. Sì. Buonissimo. Buonissimo. Evviva. Quindi 10 anni circa di Vanosca, sì, di vita, diciamo. E sonorità. Vuoi dire dove siamo nati? No, siamo nati a Firenze Sud e niente, sì, praticamente 10 anni di vita e siamo partiti in 3 e ora siamo in 8 e niente. Vi moltiplicate? Figliate anche? Sì, no, no. Ancora non ce la siamo sentita. Stai buono, scusa, esageriamo. E il genere, perché poi io vi leggevo un po', come vi definite, ska? Puramente ska, no? Dire puramente ska è un po' azzardato. Ah, azzardato. Sì, perché comunque se dobbiamo dire che siamo un gruppo original ska diremmo una bugia. Quello che siamo è un miscuglio per l'appunto di quello che è lo ska, un po' del reggae, però stiamo cercando un pochettino di allontanare, no, un po' di quello, un po' di quello che è il punk. Ultimamente ci è presa bene anche un po' l'hardcore, quindi benissimo. Ska, epic ska core, penso sia riassuntivo. Bella, ok, sì, ci piace. Sì. Un nuovo genere. Ultimamente con dei riferimenti chiari d'appoggio e solidarietà alla resistenza curda. Quindi magari così non poteva andare. Assolutamente. Ivanosca, quindi Saltan Ska. Via. Wombat. Thank you. Aha, sono e questi sono gli Ivanovska. Primo pezzo del nuovo EP. Sì, scusatemi, ero... Eri distratto. Ero distratto, soprattutto con la cuffia. Con la parte della cuffia non funziona, staccata. Niente, nulla, vai, eccomi. Questi erano Ivanovska. Ottimo sono pezzo che qua con musicale noi. Grazie. Cioè, senza voce, insomma. Sì. Strumentale. Strumentale, bravo, grazie. Bravo. Prego, prego. Bene, bene, allora eravamo qui un po' a chiacchierare, a scambiarci racconti. E... No, dicevamo, infatti in questi 10 anni un po' qualche sketch vi sarà successo, qualche cosa particolare. Sì, allora, un paio sono successe tipo una volta dopo un concerto e hanno trovato Matteo il cantante. Cazzo, vabbè, ho detto il nome, vabbè, sti cazzi. È Matteo. Matteo, che rincorreva un coniglio nel campo di un vecchio, ovviamente alterato. E... L'altro è successo a me, al K100, che in pratica in questi posti tu vai e non ti pagano, ovviamente, cioè non vogliamo nemmeno essere pagati, però ti offrono da bere. E iniziano un pochino troppo presto a farlo. Bello, ok. E nulla. Lui no, Emilio, io suonavo il basso perché lui non doveva venire. A un certo punto io ero sul palco, totalmente fatto, cioè ero fatto, totalmente sbronzo. Fatto, va bene. Fatto no, tantissimo, però resta il fatto che non riuscivo a suonare ed è stato bellissimo vederlo da lontano che entrava, perché appena è entrato si avvicinava al palco io mi sono tolto in basso, lui ha continuato a suonare, però no, forse all'inizio abbiamo suonato un po' assieme. Il problema è che io sono arrivato e lui non mi ha detto e non mi ha spiegato la situazione tanto bene. Schi ha continuato a suonare, io ho detto ormai sta suonando lui, io faccio la voce, faccio un po' di cori. Dopo il primo pezzo sentivo e mi continua a cascare addosso. Schiavi fuoco, Guido, ma che tu fai? Guardami un po'. Schiavi, boh, si fa un'altra canzone, si fa una cover di Guccini e non ha preso neanche una nota. Io intanto gli do le pedate da dietro, E niente, a metà canzone si toglie il basso, scende giù e comincia a baccagliare tutte le figurine. Giusto, a quel cioè punto. Avanti, prendo a quel punto partacce da tutti e niente. È andato in questa maniera più o meno. Ma quindi il bassista sei tu, Guido? O... No, il bassista perché... sono io. Ah, ecco, perché infatti al CPA mi ricordo che suonavi tu. Abbiamo avuto un po' di cambi di strumenti, però di basso io suono la chitarra e mi basso. Gabri Marquez, Gessa, Matte e voci 1 e tutti il resto fiati, lunghi sì, batteria e Antonio, l'altro chitarrista. Sì. Il chitarrista. Sì, è un fenomeno questo. Fiati diversi, vedete, tromba e sax. Corno, un'altra tromba, sassofono. Sassofono. Sì. Alla grande. Sì. E il cantante suona e canta. È il cantante Matteo, che è l'unico, assieme ad Antonio, a quanto abbiamo capito, che effettivamente ha studiato musica. Okay. È l'unico che, diciamo, si può definire effettivamente un musicista completo, aggiuntivo cantante. E il cantante anche dei Collapse, che sono un gruppo hardcore, penso io, qualcuno li conosce. Sì, si mente all'Emerson, tra l'altro. Sì, parecchio. Infatti ha una bella voce, ci piace parecchio, sì. Molto bene, molto bene, molto bene. Ma e questo disco, che non è un disco, si è detto che non è nemmeno un EP, che non è nemmeno l'antidisco, dove si trova? Dove... Allora, per trovarlo, dal momento che non siamo molto amici di CIA e cose del genere, bravi. Fisicamente lo troviamo, perché neanche io ce l'ho ancora, al CPA, e ci contattate via Facebook o in qualche modo, se... l'ho riuscito a trovare o lo rubate oppure insomma lo comprate per 5 euro, un euro a canzone. Se può fare. Sì, è abbastanza accettabile. Direi. Oppure ai prossimi concerti abbiamo un banchino dove di solito lo vendiamo. Sì. A questo punto dove suonate? Suoneremo la prossima volta il 10 giugno alle Rock contro gli Ecomostri, assieme a un po' di gruppi anche abbastanza fighi. Ci sono i Diaframma, e c'è Bobo Rondelli, Mattiele Giuncaglio. Insomma, quando bella... è questa cosa? Scusa, ma 10 viene, giugno. Sì, no, 10 venite, giugno? Davvero. C'è un botto di gruppi, ora non me li ricordo tutti, però tra cui anche noi. Sabato. Come? Andrea ci mette in difficoltà, sì, così? Sì, comunque un fine settimana. Diciamo che è sabato. Sì, mi sa è sabato, sì. Perché mi sembra che l'11 ci sia il mercato in polveriera. È vero, bravo. Mi ricordo che il giorno prima. Che giusto. Giusto. Quindi il sabato 10, dai. Giusto. Sabato 10, bello. Organizzato dalle mamme no inceneritore, una rete che sta dietro a questa situazione. Vero, ma, ma dov'è il concerto, scusate? Lo fanno al Prato del Polo di Sesto. Ah, alla fine, alla fine lo fanno là, sì. Ok. Come si chiama la via del... Non lo so, adesso... La via... Boh. No, cercheremo. No, cioè, la via del Polo di Sesto è tipo la via dei pensieri. Oppure sì, via poi, o viale degli dèi. Via delle idee. No, degli dèi, delle idee. No, non degli dèi. Quella è la via degli dèi, un'altra cosa. Sì. No, vedevo, ci avete anche una mail. Sì, che qual è? Boh. Ivanosca Firenze, ciao, ci metti tutto home. Bravo, bravo, Guido, che ci dai le... Tra un po' viene assunto fra gli Puoi diventare tipo... Sì, sì, guarda, l'altro giorno c'era una gem in quel di Polveriera. Ho preso il basso in mano. Finisce le novità. E comunque l'offerta artistica è piuttosto valida, direi. Sì. Sì. E, ascoltiamo fra poco un altro pezzo che avete dal vostro EP, estratto dal vostro EP, che si intitola... Allora, il titolo è 1312, e non è ormai più un titolo di nicchia perché molti sanno cosa significa, e parlavamo prima del perché, un perché esatto. Si trova nel titolo stesso, e dopo i vari fatti, ultimamente, sì, sì, sì. I processi e tutto, come vanno le cose in questo paese, ci sembrava nella maniera più onerosa, cioè giusta, diciamo, onerosa farlo. E non, con questo non è che vogliamo stare lì a fare politica, cioè nel senso, vabbè, non vogliamo essere fraintesi. Certo. È un pezzo che viene da dentro, non è nulla di, insomma, di... strumentale. Sì. Fazioso. No, sì, ma potrebbe, sì, lo è. Lo è. Non vogliamo avere l'arroganza di affrontare i temi, diciamo così, delicati con la musica, però è un modo come un altro per comunicare quelle che sono le nostre idee in merito alle forze dell'ordine in generale. Ma sicuramente sì. una canzone, un titolo di parte, cioè partigiano, sì. E a noi queste sì, cose piacciono sì, parecchio, sì, insomma. Sì, assolutamente. Possiamo dirlo così. Allora, 1312. Ivanosca. Wombat. Servir lo Stato, puoi nascondere l'identità, dietro un casco senza alcuna dignità, e non trovare la scusa che era l'unico mestiere, che era l'unica via per poter mangiare bene, che non lo senti sotto il gusto di picchiare, piglianti. Lotti contro l'umanità. Ricordo da trovanti Sandri, Uvanti, di Cucchi, di tutti quei ragazzi umiliati e distrutti. Di volte pagherete tutto caro. La guerra per i poveri, ma la voglio parlare. No, è uno, due. E rieccoci. Uno. Questa volta sì. Uno. Tre. La domanda. Esatto. E ha fatto salto quando c'è il ritornello. Quanto salti quando ci sono Ivanosca in generale. E sudo. L'ultima volta, sì, l'ultima volta che vi abbiamo sentito era il 25 aprile, sì. Stavo pensando l'ultima volta era il 25 aprile. Sì. Quindi abbiamo detto un po' le prossime date, le abbiamo dette. Sì, abbiamo sì, detto 10 giugno. Lì a, appunto a Sesto, rock contro le, gli Ecomostri. Sì. Abbastanza pieno, poi si vedrà. Ok. Sì. Assolutamente. E noi intanto pubblicizzeremo sicuramente la questione della piana e di tutti coloro che suonano a favore, perché anche noi siamo solidali e lottiamo per ciò. E niente, altro che ci volete raccontare in particolare? Ci fa piacere oppure... Quello che magari ci fa piacere dire è che tutto il lavoro che abbiamo fatto finora per registrare appunto l'EP è totalmente autoprodotto e autofinanziato. Abbiamo cercato un pochettino di farlo alla maniera nostra, totalmente. Io penso Emilio per poco non sia stato linciato dal tipo che ci registrava, perché comunque non è facile autoprodursi sia da un punto di vista di fisico, no, il CD, il materiale, che sembra una cavolata ma vi giuro è un casino assurdo. Mm-hmm. E sia le canzoni come vanno registrate. Il discorso è che fino a quando sei in pochi ti puoi permettere anche di fare abbastanza il comodo, perché okay, sei certo. in otto non decidi, ci vuole un'avanguardia illuminata comunque che porta avanti tutto, la dittatura morbida, sì, se no non si fa. Non ci credo, multitraccia chiaramente. Sì, sì, no, e la produzione è abbastanza cioè è buona, nel senso, per essere una cosa che ti serve per produrre, a noi è uscito un bel lavoro e siamo veramente felici. Bello, la gente è abbastanza entusiasta pure, quindi sì. Viva. E vivissima. E d'accordo, direi, a questo punto noi vi salutiamo, ragazzi. Grazie mille. Andiamo avanti qua, se volete rimanere qui con noi, intervenire tutte le volte che volete. Sì, qua siete. Siamo grandi. Grazie a voi. E vi salutiamo e salutiamo anche tutti gli altri componenti che sì, anche per motivi di spazio qua sì, già non potevano sì, entrare, ma sì, sono qua col, col cuore. Ci sentiamo nel cuore. Arcore. Dai, col cuore sca. E niente, quindi comunque a risentirci presto e ci vediamo a presto. Abbiamo detto il 10, il 10, ci vediamo il 10 al polo, al polo, al polo di Sesto. Bella. Wombat. Ciao ragazzi. Ciao. Orbene. Guido Caro, tu fai per toglierti le cuffie, no, vero? Io? Dove vai? E vai via. Fai, chiudi tutto, fai ciao, festa ragazzi, insieme agli Manosca. Sì. Vai. No. Non andrai, assunto, no? Non andrai con loro. Oh, uffa. Oh, ti tocca rimanere qua con noi. E dicevamo prima che siamo alle porte. Siamo alle porte coi Sassi. Coi Sassi. Siamo alle porte di questo festival. Esatto, questo giovedì inizia il Festival di Letteratura Sociale in quel di Polveriera. Allora, sì, si svolge, si dipana in 4 giorni. Sì. Uno in più dell'anno scorso. Tra l'altro. Coraggiosi questi ragazzi. Un po' troppo, forse. Vediamo se coraggiosi o coraggiosi o avventati. Ogni sì, giorno appunto ci saranno banchini di varie associazioni. No, associazioni ecco, associazioni no, ci saranno una volata, volevo dire. Supporto entità. No, ci sono librerie, ci sono riviste, infoshop, le riviste, ci sono le collettivi che appunto portano il proprio materiale scritto e anche orale, se volete. Ci saranno appunto, poi magari ve le elenchiamo anche, o comunque vi raccontiamo quelle, alcune di quelle che ci saranno. No, dibattiti, diciamo, discussioni, esatto, e soprattutto quelli dibattiti sono i banchi, e diciamo, presentazioni. Poi invece, durante le giornate appunto si svilupperanno dei tavoli, sia delle tavole rotonde in cui ci saranno proprio dei dibattiti aperti a cerchio, e poi anche delle presentazioni magari un po' più classiche di sia anche più artistiche, direi, anche, e anche più artistiche. Bravo, bravo. Sui calar della sera. Esatto, quindi presentazione dei libri, presentazione delle riviste, progetti, presentazione di progetti politici o letterari o culturali o appunto soprattutto artistici, nel senso molti anche movimenti artistici che fanno della militanza letteraria o comunque in genere artistici. Quindi rigorosamente indipendenti, loro, autoprodotti. Sì, diciamo che in generale il festival nasce proprio con l'intento di dare spazio a quelle realtà, a quei percorsi, a quei progetti che restano emarginati o se non proprio censurati dalla narrazione principale, dalle narrazioni mainstream, esatto, di quelle che noi chiamiamo narrazioni dei potenti, cioè, mm-hmm, che chiaramente non sono né profittabili perché si pongono al di fuori dei circuiti prettamente commerciali, e poi la maggior parte sono anche delle narrazioni piuttosto scomode perché chiaramente dà fastidio al, al potente che il piccolo, il povero dal basso in alza voce per dire la sua età. Sì, dalle 15 si apre il festival, si aprono tutte le giornate. Fino a notte. Fino a notte, diciamo, c'è sempre la, un aperitivo a spezzare un po', a concludere un po' la giornata. Esatto. Seguito da concerti o appunto, come dicevamo prima, performance, esatto, di presentazione dei di Radio Wombat. Che sarà presente e interverrà, chiederà e passerà musica. Intervisterà anche i protagonisti del, di questo festival e anche non protagonisti. Quindi Wombat, se non potete venire, solito, male, però se non potete andare in polveriera, certo, ascoltateci su Radio Wombattona. Sì. Ora voi la voce di Nico l'avete già sentita. Gna gna. Ciao Nico. Ci saranno le rubriche solite, ci saranno tutti i contributi, però un po' il filo conduttore della puntata sarà il Festival di Letteratura Sociale. Però sigla comunque. Dai, Puoi dirlo ora. Sigla! Ci buttaste per mamma con tanto amore, dubbi e sicure. E vorrei cantarvi una canzone che è una storia d'amore. Questa canzone ha inizio quando l'amore è finito, almeno per uno dei due. Disgraziatamente sono io. Che tristezza, Buonasera, buongiorno, viva Radio Wombat, salve, viva Fuoco alle Polveri, ragazzi, ciao. Ciao Nico. Io lo so che ci eravamo lasciati con la promessa di continuare il discorso sulla canzone napoletana, ma c'è un sole in giro, troppo bello, io non posso far ascoltare alle persone queste canzoni, non che mettano depressione, però nel senso, volevo roba più felice. Allora, okay, da oggi vorrei inaugurare una digievoluzione della mia... Bellissimo, siamo sempre contenti della quando mia c'è un'evoluzione. Rubrichezza, perché abbiamo visto nella scorsa puntata si è inaugurata questa cosa simpatica del parlare sopra le canzoni, cioè di sentire le canzoni a microfoni aperti. Ma sì, non lo facciamo per tutte, ma visto che mi piace allargarmi, ci mettiamo un pezzettino alla fine di cui parleremo. Comunque, stop, interrompiamo. Oggi avevo in mente di dare un titolo a questa puntata e il titolo è Dannate storie d'amore. Nel senso, qua alla fine, vuoi o non vuoi, gira sempre che tutti i pezzi che faccio raccontano sempre la stessa storia d'amore coniugata e declinata in maniere diverse. Si chiama Due pezzi di cuore, sarebbe certo, anche strano. Tupino, certo, effettivamente te la sei anche cercato. Sei bravo, sei così. Insomma, oggi il discorso della storia d'amore è proprio a tappe e si, diciamo, si interseca con quella storia d'amore che c'è tra la Francia e l'Italia, che c'è soprattutto in quel periodo che sono gli anni 60, in cui l'avanguardia artistica francese, quei tanti movimenti giovanili influenzavano tanto i nostri e anche la televisione se n'era accorta, tanti cantanti furono presi e portati qui da noi, anche perché poi verso la fine degli anni 60 questa cosa non funzionerà più, i grandi chansonnier che c'erano stati prima, Aznavour, Brassens, Brel, inizieranno ad avere una certa età, i cantanti francesi finiranno per piacere soprattutto ai francesi, quindi quel mischiume che c'era prima, vi ricordate tutti gli inglesi che venivano in Italia, tutti i francesi di cui parliamo oggi, che venivano in Italia negli anni 60, negli anni 70 scompaiono, scompaiono dal panorama musicale, diciamo, europeo più ampio, rimangono francesi chiusi nella loro lingua. Uno di questi è il grande Johnny Holiday, lo conoscete Johnny Holiday? No. Io no. Gli hanno dato questo, sì, questo Guido, soprannome. Ma guarda te, pensate, oh, il fenomeno va accanto a me, cioè sincerità. Ecco, era andato via. Non lo conosce, e quindi hai ragione. Non sapevo di cosa stessimo parlando. No, ci devi raccontare tutto. Noi siamo due sprovveduti. Ignoranti. Che facciamo Johnny Holiday, una rockstar francese rimasta in Francia, piace ai francesi, noi l'abbiamo conosciuto poco, però è stata una super rockstar e soprattutto ci aveva come sposa, cioè la sua mogliettina, verso la metà del 65. A pensare a un francese rockstar non è infatti difficile. Gli hanno dato questo nome, insomma, che è la più, la più grande rockstar di cui non avete mai sentito parlare. Bella, penso che sia abbastanza buono. Sì. Alza un pochino, c'è sotto il parapapapapa, questa cosa qui, sì, quella che stiamo sentendo, sì, si chiama Sylvie Vanasse ed era la sposa di lui, è venuta in Italia sì. Presentata alla TV con una cover di Mina, quella che fa zun zun zun zun zun zun, okay. Zun, zun. Okay. Ragazzi, cioè, andatevi, sì, a cercare questi video di Sylvie Vartan, è una cosa... Cioè, proprio bello. Evviva che hanno inventato le telecamere, è proprio troppo bella, veramente troppo bella. E insomma, e canta così la canzoncina che stiamo sentendo adesso. Allora, il pezzo che portiamo oggi per primo non è suo, non viene nemmeno dalla Francia, non c'entra un cazzo, però mi piaceva introdurlo. Infatti così, sei libero, perché comunque sono gli stessi periodi. Il pezzo che sentiamo è di Sandy Shaw, un'altra appunto venuta in Italia sempre negli anni 60, questa però britannica, ha fatto pure un festival di Sanremo. Vabbè, nulla, inutile parlarne, sentiamoci sto pezzo che è bellissimo, tradotto di lei, tradotto, okay. Cioè, nel senso, come Sylvie Vartan per esempio quando è venuta in Italia ha tradotto moltissimi pezzi suoi. Quello che stiamo sentendo qui è Come un garçon, lei lo rifà in italiano e fa come un ragazzo mi vesto giù, così. Ma brutti, traduzioni spesso fatte da Minus Abens, una cosa... Ci però rendo. Comunque è molto divertente, sembrano scritte dagli Schiantos in realtà, okay. E no, con questo non voglio offendere gli Schiantos, gli Schiantos. No, non voglio offendere i Minus Abens in realtà. Insomma, pezzone, Tomorrow, domani, questa storia meravigliosa di lei che si sente in colpa perché il giorno dopo, cioè domani appunto, Tomorrow, dovrà dire al suo ragazzo che oramai lei si è innamorata di un altro. Ok. E quindi... Friendzone. Niente, sentiamola, sentiamola. E da qui poniamo l'inizio della storia d'amore che raccontiamo oggi. Bella. Prego. Sandy Shaw, domani. Domani qualcuno ritorna troppo tardi, ma a cercare di me tornerà. Affrontare i suoi perché e cercare la ragione che non c'è. È vero che toccava a me spiegarle che adesso te, ma odio quello che farò domani. Domani qualcuno gelerò quel sorriso. Ci pensi tutto il tempo che ha dedicato a me, non è giusto, ma ormai è così. È vero che toccava a me spiegargli che adesso te, ma odio quello. Ci sei tu. Domani starò meglio dal momento che avrò detto che oramai sto con te. Le parole fanno male anche a me, ma non cambierà in amore senza la pietà. Dice che queste trombe qui sotto sono ispirate alle ambulanze di Marsiglia. E il musichiere che ha scritto questa canzone, sapete chi è? No. Ennione Morricone. No. Eh sì, è lo scrittore del testo di questa canzone, lo sai chi è? No. Costanzone. Non stiamo scherzando. Stanzo, Maurizio Stanzo, Ghigo De Chiara e il grande Ennio Morricone si uniscono insieme per preparare questa canzone per Creatori, per presentare la terza edizione di Studio 1. insomma, e parla appunto della fine telefonica di un amore. Oggi il medium con cui si scontra questa dannata storia d'amore che andiamo a raccontare, che chiaramente finirà malissimo, è inutile che lo stiamo diciamo nemmeno dire, si svolge attraverso questo bel medium che è il telefono. Ed è una cosa che funzionava moltissimo negli anni 60-70, soprattutto negli anni 70. Pensate a tutte quelle canzoni che si possono definire feuilleton, non so come cazzo si dice, ragazzi, oggi parlo solo di francese, però il francese non lo so pronunciare, cioè nel senso sono ancora in verbe. Dovrebbe essere feuilleton, e vuol dire tipo telenovela, capito? Okay. L'importante è la traduzione. Di come si scrive, andate a cercarvi la si scrive feuilleton. Google Translate, sentiamo che dice. Con una sola T, però, con una sola T. Insomma, andava molto questa cosa del feuilleton a telefono. Pensate a Buonasera dottore. Ciao, sono io. Buonasera dottore. Amore mio. Bene, quella canzone bellissima di Claudio Amore, insomma. E oggi, io oggi ho strutturato tutta la puntata per arrivare a questo punto. Cioè a questa canzone che sogno di mandare. Scusami, tutta la tua settimana per arrivare a questo punto. Tutta la mia settimana, sì. Certo, certo. Questa canzone meravigliosa, veramente una delle mie preferite in assoluto. E si chiama Piange il telefono. Oggi, in realtà, solo oggi, dopo anni che l'ascolto e che la sua memoria, ho scoperto che il titolo originale ha questo pezzo meraviglioso dei puntini tra piange e il telefono. Quindi è piange il telefono. Ah. Perché in realtà piange colui che è al telefono. E loro hanno voluto sottolineare, guardate che è una metafora, certo, piange certo. Il telefono. Non è che esce l'acqua proprio dal telefono. E insomma, sì, scopro anche oggi tra l'altro che questa canzone è una translation. È stata tradotta e non era... Io pensavo che l'avesse fatta Modugno. È una canzone di Modugno del 75. Insomma, in realtà non è sua. È una cover della originale Le Téléphone pleure. Pleure. Sì, piove. Piange. Pleure. Insomma, piove, pleure, piange. Di Claude François in coppia con la piccola Frédéric Barcoff. La cosa bella, vabbè, Frédéric Barcoff, bellissimo, la piccola Francesca Guadagno per me è un personaggio molto importante in generale. Gli diedero, insomma, la critica accolse male questa canzone, gli diedero dello strappalacrime. Comunque vendette tantissimo. Il telefono anche a me piace. Tutti boom, sono a girarci anche un film in tempo reale con Caro, di tale Lucio De Caro, ma tale Lucio il Soffo. Lui. Nel 75 questa canzone è in stile l'Italia e a Balestrieri. Si innamora perdutamente di un'affascinante modella francese, Colette Vincent. O Vincent, vabbè. Alla quale promette il matrimonio. Io adesso spoilerò tutto il film, sì, ma tanto muove ragazzi... Muove poco il telefono, che sì, è scusami. Anche la fonte delle persone che ci ascoltano. Scusami. A causa di problemi cardiaci, però, Andrea è costretto ad abbandonare il lavoro e per non finire dietro una scrivania decide di pilotare aerei privati. Giusto. Finendo però involontariamente a condurre un aereo carico di armi diretto in un paese non identificato dell'Africa subsahariana. Perfetto. Andrea viene allora catturato da un gruppo di ribelli mentre gli altri due piloti vengono uccisi. E siamo all'inizio. Che uno ride però. Solo dopo 7 anni di prigionia Andrea riesce a tornare in Italia, dove scopre che Colette si è rifatta una vita accanto a un medico fiorentino. E guarda come si intrecciano i discorsi. Certo. Colette rifiuta di rincontrarsi con Andrea, che credeva morto, che credeva l'avesse abbandonata poco prima del matrimonio. Non sapeva della prigionia. Andrea decide così di telefonare a casa, dove gli risponde una bambina di 7 anni, la piccola Chiara. La piccola Chiara. Okay. La figlia che Colette aveva concepito con lui poco prima della sua partenza in Africa. Ma che intreccio clamoroso. Colette ha un altro marito adesso. Lui riesce, dopo la telefonata che noi stiamo per sentire, perché la canzone che stiamo per sentire è la telefonata tra la piccola Chiara e Domenicone, certo. Insomma, dopo questa scena lui riuscirà a parlare solo col nuovo marito di Colette e niente, che però non gli dirà che non la può incontrare. Riuscirà a passare solamente un giorno con sua figlia e poi... La canzone lascia intendere, e anche il film, si uccide. Mm. Cazzo. Perché scopre di essere ammalato anche di cancro. Una cosa, è una tragedia violenta. Ma no, a causa dei suoi problemi cardiaci non avrà più molto tempo per conoscere la figlia. Quindi ci passa una giornata. Però nella canzone dice comunque addio, perché non ci rivedremo più. Salutamela. Addio, addio. Ma domanda: ma è un film visivamente bello? No, è tremendo. Però comunque pensa che Modugno è nato come attore, voleva diventare un attore. Quindi comunque vedi questo, che è stato uno dei cantanti più fichi d'Italia, che la sua passione era, come dire, capito? Un'altra. Sì, sì, come quando dicono Mussolini ha fatto anche buone cose, i tortellini. Tortellini. Un ottimo esempio. La passione del... come Hitler e i suoi bellissimi quadri. Quadri, no, paesaggistici. Cazzo, guarda che sto belli, io li ho visti, Sì, io l'ho visti, ma lui si atteggiava grande artista, sì, e poi non era un grande artista. Ho visto giusto l'altro giorno un documentario su questo. Buonetti, però, appunto, no, non era un grande artista, infatti devo smettere. Insomma, ragazzi, sentiamoci questo pezzo, io però vorrei proporre questa cosa. Almeno per l'inizio della canzone teniamo il microfono aperto e sentiamola parlando. Vai. Pronti via. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno. Non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre: dimmi che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola la risposta della bambina è meravigliosa. Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario. Gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età. No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera. Ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani lo saprai. Falla aspettare, sta uscendo. Falla fermare, è andata via. Se è andata via, allora addio. Addio. via, signore. Ciao. Arrivederci, signore. Arrivederci, signora. Ciao, piccolo. Ciao, piccolo. Allora, di corsa. No, aspetta, sì. Di corsa. Vai, vai, vai, vai, vai. Bellissimo. Il prossimo pezzo. Nino Ferrero. Secondo me dovessi tagliare. Sentiamo. Tra l'altro, aspetta, aspetta. Ciao, Agata. Piccola, taglialo. Metti pausa, voglio metti mettilo pausa, sempre. Blocchiamolo, sempre, blocchiamolo. Sempre, sempre. Voglio sentire quel ciao, piccola. Sempre. Devi tagliarlo e rimetterlo. Ciao, lo piccola. Faremo per le prossime puntate. Arrivederci, signore. Questo pezzo è bellissimo. Insomma, ragazzi, il grazie. Prossimo pezzo è ancora più bello. E addirittura mi sono permesso di fare questa cosa simpatica, cioè di unire la versione italiana e la versione inglese insieme. Ho messo la prima strofa di quella italiana e la seconda in inglese. Sì. Molto bello. La vol trasmetto pezzo per diremo l'arte della canzone mi prima qua olitate che sa veramente in francese è più bello comunque sì no di tipo prima giocavamo al medico e alla fiancée ora gioco a mesul mesi tan plaisir un plaisir relassé di tipo di non mi ricordo che cazzo dice vabbè, tipo ok la sentiamo la sentiamola sentiamola sentiamola sentiamola però è bellissima Wombat. Mettila, mettila. Ma rimaniamo con questo, ragazzi. Ascoltate attentamente. Bene, ci proviamo. Ma stessa volta. No, devi pensare a questo. Tra l'altro, Nino Ferrer è quello che è stato viva la campagna. Sì. Ti è andato Nino Ferrer. Sai perché? È la fine della canzone d'amore della nata di oggi. È la storia d'amore. E non ci vedo e risparmio gli occhiali. È tutto per te. Questo francese che fa l'accento mezzo calabrese fa troppo ridere. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale. Spacco lira, spacco soldo e mi spacco pure me. Spacco pure me. Mi arrovello, mi arrabatto per accontentare te. E tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata? Tradisci, Agata, guarda, stupisci, come è ridotto quest'uomo per te. Non so se la sentiamo in francese. E vi lasciamo per la prima volta, tra l'altro, un pezzo in francese nella rubricona. A voi. Ça fait trois ans che je porte une chemise. Prossima, un bacio, via fuoco alle polveri. Ce sera toujours la mer. Je l'ai déjà fait six fois. Il faudra le mettre dans un musée. Agatha, tu me ruines, Agatha. Tu m'assassines, Agatha. Regarde, examine. J'ai réduit le repas quotidien sans hésiter. Un grand verre d'eau fraîche le matin, pas de café au lait. Quand je rentre au domicile, je ne trouve plus personne. Je soupire avec tristesse et me surprends à rêver. À quand nous jouions ensemble au docteur et au fiancé. Maintenant je joue tout seul, mais c'est un plaisir relaté. Agatha, tu me ruines, Agatha. Tu m'assassines, Agatha. Regarde, examine. Je suis un homme qui n'est plus ce qu'il était. She's complicated. Quella lì che ha lasciato lui prima dicendogli siamo amici, mi dispiace, ciao. Beh, Agatha. È stato bellissimo comunque. Un momento profondo. Stavo felice. Lui un po' meno. Sì, che se ne frega. Forse è anche morto ormai. Dunque. Dicevamo all'inizio puntata appunto del Festival del Tesoro Sociale dal 18 al 21 maggio 2017 negli spazi liberati dalla polveriera. Andiamo un pochino più nello specifico. Vediamo un po'. Andiamoci. Dai, allora. Vi accompagniamo per mano. Il primo giorno, che è giovedì 18, noi potremo ascoltare dalla radio o vedere direttamente polveriera. Ci saranno in realtà il primo giorno sarà un po' sulle riviste, mi sembra di capire. Sì. nel senso che verranno presentate le riviste Qui e Ora. Esatto. La Città Invisibile. Nuova sì. rivista letteraria. Poi una presentazione della rivista Street Boot Magazine. Magazine, esatto. Con letture e letture musicate. Poi vi raccontiamo anche di cose. E stessa cosa per Ruggine, un'altra rivista. Storica rivista, sì. E ci dovrebbe essere addirittura una sessione di illustrazione dei racconti contenuti in Ruggine. Quindi, bellissimo. Insomma, è roba buona. Sì, diciamo che quest'ultima presentazione è la rivista presentata senza essere ancora stata pubblicata, cioè questo numero di Ruggine che sarà presentato, appunto, per adesso ci saranno i racconti già pronti, gli illustratori faranno le illustrazioni e poi le rappubblicazioni che potrete vedere okay. Nel corso di... cioè, nel loro farsi, esattamente, nel festival. Ripartiamo, cioè andiamo un po' così. Qui e Ora, citato. Ho citato Qui e Ora, sì. Che verrà presentata dai curatori del progetto, che è un... ecco dov'era. È una sorta di grande giornale, è bello. Io ce l'ho adesso sotto mano. È un bello mano. Oggetto, attenzione, lo stavo giusto cercando. È spuntato come un pop-up. Sapevo soltanto questo è il numero zero. Questo è il numero zero, abbiamo molto sotto bello, le mani. Tra l'altro, è un formato giornale. A tre. È un formato, sì, sì. Aspetta, faccio un paragone, attenzione, a tre. E no, è molto bello in realtà. Se vuoi leggere qualcosa, Guido, caro. Sì, sì, possiamo anche leggere qualcosa. Aspetta, il mio microfono, come ben sai, è in punta di spada. So perché di spada, ve lo dirò dopo, perché in punta di spada. Ho paura. Non lo so, intanto andiamo avanti, io magari... Si sceglie un pezzettino, io magari intanto leggo un'altra cosa che effettivamente era già prevista. Che appunto questo, noi stavamo parlando della Le Parole alla Rivoluzione, l'ultimo numero di nuova rivista letteraria Elita da Allegre. Saranno presenti in polveriera Adriano Masci e Wolf Bukowski, che sono due degli autori, penso. Sì, certo. Sì, due degli autori dei racconti. Penso che siano articoli, racconti. Non ve lo so spiegare bene, anche sono, perché ancora... Sono una serie di scritti esatto. Che seguono un po'... Scritti è la parola generale che cercavo, grazie. Un alfabeto di parole della rivoluzione raccontate... Da alcuni autori. Esatto, esatto. Per esempio, vi leggo un attimo questo sommario che ho trovato online. L'introduzione è questa: 21 parole, una per ogni lettera dell'alfabeto, che hanno caratterizzato i più variegati tentativi rivoluzionari della storia, o riconducibili al significato semantico della parola rivoluzione. Da soviet a femminismo, da violenza a non violenza, da barricata a tradimento. Un modo per ripercorrere la storia degli avvenimenti e la tradizione letteraria che li ha raccontati, concentrandoci sull'epica dei tentativi di trasformazione sociale, comunque siano poi andati a finire. A come arte, di Cristina Muccioli. B come barricate. C come c'è. D come decolonizzazione. E come eroismo ed erotismo. F come femminismo, G come garofani, H come hippies, I come internazionalismo, L come letteratura, M come musica, N come no violenza, O come operai e occupazione, P come Parigi, tra parentesi è la comune di Parigi, Q come 48, di Wolf Bukowski, che appunto sarà presente anche in polveriera, R come rivolta, S come soviet, T come tradimento, U come unions, di Valerio Evangelisti, tra l'altro, V come violenza, Z come zapatismo. Questo è per, appunto, era il sommario. L'indice dei racconti. Sì, l'indice dei racconti, degli articoli, degli scritti contenuti all'interno di Qui e Ora. Fichissimo. Molto figo, molto allora. Molto figo. Tutto bello, ma non di Qui e Ora, non di Qui e Ora ma della nuova rivista letteraria. Della nuova rivista letteraria, scusami. Esatto, no. Di Qui e Ora, invece... Di Qui e Ora invece, vedi, ci rimbalziamo bene. Sì, vai. Esatto, c'è un sacco di articoli interessantissimi. C'è un articolo, L'angoscia dell'individuazione, note sul movimento del 67, che però c'è un piccolo trafiletto. Sì, 77. 77, ho detto 67, 67. Ve lo dico, scusate. Sì? 77 di Franco Piperno. Sì. E c'è un trafiletto bellino. Vai. Che riprende la parola qui e ora, che è il titolo della rivista. La rivista. Sì. Allora, la prassi del movimento mostra intera la potenza sovversiva proprio perché il mezzo ed il fine si convertono l'uno nell'altro. L'azione diretta mira a realizzare qui ed ora bisogni e desideri. Non chiede nuovi diritti, ma piuttosto punta a far riemergere abitudini che dormono nella memoria comune e rievocano, attualizzandoli, antichi costumi. Bella. Non male. Non male. Bella. Molto, molto, molto bella come definizione, nel senso proprio di attivismo e di cosa, come il movimento serva poi a riportare... Riemergere come proprio la forma di irruzione... sia nella mentalità, nell'equilibrio, diciamo, posto dall'equilibrio sociale e culturale del sistema, sia nei fatti e nella realtà pratica, diciamo. Esattamente. E questa rivista sarà presentata prima della giornata. Dopo l'apertura del festival, sì, alle 15:30. Esatto. Quindi molto presto, ma... Non andata la prima di una lunga serie. Uno dice, no, ma giovedì pomeriggio lavoro. Ferie, prendere ferie. Subito dopo, diceva... Qui ora alle 3:30 e letteraria, che invece alle 6, poi tutte le, il programma dettagliato lo trovate su internet, cioè ovunque, hanno messo ovunque quei pazzi della polveriera. E, alle 4:30 invece sarà presentata la rivista La città invisibile, che è un progetto del laboratorio per un'altra città, che è un laboratorio proprio, un gruppo di persone molto allargato che... fa attività di indagine, inchiesta, analisi, lavorando molto sul territorio, soprattutto agisce nell'area metropolitana di Firenze. Sì. Quindi sta attenta a tutte le istanze, le lotte territoriali, sia nel mondo del lavoro, sia un po' su tutti, molto ampia, cioè, l'operato di questo laboratorio per un'altra città. Addirittura della settimana scorsa, che l'abbiamo pubblicizzato, lo presentammo anche, il laboratorio per un'altra città ha aperto uno spazio di socialità, di agibilità sociale, buono, e di mutuo soccorso, insieme ai Clash City Workers, che sono un collettivo che fa attività sindacale di base e di coordinamento e unione delle varie lotte, il rapporto scuola-lavoro nei vari settori del lavoro. E quindi niente, fra i vari progetti che portano avanti c'è appunto questa rivista La città invisibile, che è una rivista collettiva, nel senso la redazione è molto ampia e si avvale di tanti collaboratori, tante persone, specialisti, diciamo, su vari argomenti, tra l'altro spazia sempre di più come rivista, nel senso va dall'urbanistica alla politica cittadina, ma si sta sempre più espandendo i propri confini anche su esteri, su ragionamenti politici più ampi, è molto interessante, potete trovarla facilmente, è tutto pubblicato anche online, ovviamente tutto è gratuito, i PDF sono scaricabili gratuitamente. Come... Hanno anche pubblicato per l'appunto un articolo sul festival che ripercorre un attimo che ripercorre la genesi del festival, come nasce all'interno di questo spazio che è la polveriera e da quell'occupazione. E dicevo che questa rivista è frutto di un lavoro collettivo, infatti sarà presente anche la giornata di domenica, durante la quale si terrà un tavolo proprio su scrittura collettiva, informatica e attivismo. E quindi niente, come esperienza di scrittura collettiva alla fine, effettivamente sì, ma anche di attivismo informatico, dato che loro si muovono molto sul web, cioè hanno comunque aprono tutti i fronti e... Ok. Basta, detto troppo. E ci interessa comunque molto. Ci interessa anche la presentazione di Street Book Magazine, però non diciamo niente perché abbiamo avuto qua in radio vi ascoltate il podcast. Quindi vi ascoltate il podcast numero, li ascoltate tutti perché non c'è, dal 20 in poi, dai, almeno lo ritrovate. Comunque c'è scritto anche, noi mettiamo delle piccole descrizioni della puntata che carichiamo, così che fosse facile anche ritrovare i contenuti più interessano. Comunque ci saranno letture di Carolina Pezzini musicate da l'esibition. L'esibizione. Questa è la molto estiva. Vedi di questa la rivista è nata piena delle giornate piene, guarda programma e riga delle che non sono la due sono no questa poi mai sono se ne ragione no ciao ah, sì. Non lo fa figa sti i primi rare non insomma casi no in Marocco di ho pensato a due giorni cosa è stato momento un po' una versione dello street food marocchino va bene perché una mattina abbiamo fatto colazione a Marrakesh. Ero, insomma, abbiamo fatto colazione in un fuori in strada, in un baracchino, in un giardino, in un baracchino di un vecchino sudicio che faceva queste cose buonissime. Comunque, fatto sta, abbiamo fatto colazione con questa frittatina, va bene? Semplicissima, velocissima, proprio buonissima, ciucciosissima. La cotta su una bomboletta del gas, cioè proprio una cosa in un pentolino. Va bene, quindi fondamentalmente serve una bomboletta del gas e un pentolino, oppure potete fare con i fornelli. Una padellina, va bene? Una padellina ci fate un soffritto di cipolla, una cipolla fresca, ce la mettete a soffriggere sopra, un pochino, non troppo, tagliata naturalmente, fine. La fai soffriggere. Dopodiché ci spiattelli con 3 o 4 uova. Semplicemente fai qualcosa. Una frittatona, quindi. No, attenzione, non è loro la chiamano omelette, non è proprio una frittata, perché le uova le sbattono prima. No, non le sbattono, cioè le aprono sulle cipolle. Fanno cuocere un po' la chiara. Sì. E poi sbatacchiano un po' l'albume e di modo che venga tutto la chiara cotta e il tuorlo solamente in parte. La cosa particolare è che va bene, quindi queste 4 uova ti ci vuole cuociono appunto in 3 minuti, poi rompete i tuorli, si spande un po' il tuorlo, un altro minuto, niente, sopra spazzolata di sale, va bene? Una ditata di sale e 2 ditate di cumino in polvere. Due ditate di cumino in polvere. Due ditate? Abbondate. Poi loro addirittura ce lo riaggiungono anche dopo. Quindi, però guarda, è una cosa ottima, cioè appunto... Il cumino insieme alle uova sì, fa un effetto sullo stomaco veramente ottimo. Faceva sempre la frittata col curry. Esatto, cioè se c'avete poi la serata che è andata un po' marcia e lo stomaco è un po' in subbuglio, il cumino perfetto. E dunque quando possiamo fare? Quindi dunque appunto, c'è il festival dell'altura sociale finisce alle 23-24, dopo vorrete andare a marcioneggiare da qualche parte, no? Naturalmente. E quindi di conseguenza la mattina dopo vi sveglierete tardissimo e rinizia la giornata alle 15, giusto? Sì, esatto, sì. Quindi avete giusto il tempo, vi svegliate alle 2, 2 e un quarto, 2 e mezzo, avete giusto il tempo di farvi due vini col cumino e ripartire. E ripartire, direzione letteratura sociale. Allah! Bello, io mi sa che farò così per tutti e 4 giorni, almeno mi sento male e via. Perché mi sa che è meglio evitare, no? Le uova. Perché bisogna evitare le uova tutti i giorni? A me piacerebbe tanto mangiarle sempre. Sì, vabbè. Colesterolo, dicono. Però a colazione, ragazzi. Buona colazione. Uova a colazione. Gli anglosassoni hanno visto giusto. Hanno visto giusto. Va giusto. Bene, ti ringraziamo. Meraviglioso, come sempre. Cioè, grazie. Addirittura ricette dal mondo. Dal mondo. Ricette dal mondo. Questo è un piccolo furto alla cucina marocchina. Evviva. Grazie mille. Ragazzi, ciao. Alla prossima. Canzoncina. Sì. Canzoncina. Sono il tuo poeta e scendo le acque erratiche limpide di una venerazione fiume senza temere le rapide. Non sul flusso che mi ti porta e sto sdraiato a naso in su. Quando la baia la barca è giunta a braccia aperte ci sei tu. istante. Non mi chiedere amore, che non credo sia tempo di guerra per me. Se ho bisogno d'amore, non vuol dire che amo l'idea di te. Mi dispiace tesoro, io non ho nessun progetto per noi. Sto bene come sto, se una colpa un giorno la pagherò. Sì, questa era Le voglio raccogliere fiori di Marlene Kunz. Come si intitola? Poeti, come dicevo. Ah, bravo, scusa, okay. Non avevo sentito. Questa poeti. Canzone ci... Mi... ci dà il la? Il la per presentare anche la, un po' la seconda giornata del, di questo bel festival. Second day. E perché la poesia sarà in generale in questo festival una delle, dei temi delle... protagonista. Sì, sì, che si svilupperà poi su più giorni. Ci saranno presentazioni di libri, per esempio il libro, attenzione, che ci arrivo, Resistance. Ci sono sia poesie, libri di, proprio di poesie vere e proprie, come è, questo libro si intitola R2.Existence, ecco, esatto, sì. Di Edoardo Olmi, ma anche libri di poesia, diciamo, non proprio un po' tipici, cioè più libri di grafica, no, come si chiamano? No, vabbè, poesia grafica. Sì, quello di Costantini, quello parli? Di ah, ok, ok. Sì. Certo. Si chiama, si intitola Le cicatrici tra i miei denti, e antologia di antologia ritratti di poesia in lotta. Esatto. Sì, si parla, insomma, praticamente di verrà appunto Gianluca Costantini, ne avevamo già parlato quando si parlava di Urbino, quella cosa a cui ci avevano invitato. Esatto. Questo disegnatore attivista che ha fatto appunto del suo disegno una forma di attivismo nelle zone appunto con la, in guerra o con problemi, insomma, lotte sociali. La cosa bella è che lui spesso appunto ai suoi disegni affiancava stralci di poesia, roba sua e roba non sua, e quindi verrà con questo libro appunto a presentare questa... In queste... questo caso sono proprio dei ritratti di poeti, poeti definibili in lotta con il mondo, con un tipo di rappresentazione del mondo. E mi viene in mente, ho visto, cioè, ad esempio Alda Merini, sì, cioè, García Lorca, Majakowski, credo. Sì, Majakowski, sì. E, insomma, Zanzotto, lui, sì. Zanzotto, no, parecchio, parecchio bello. E lui è un personaggio molto interessante, molto grande, possiamo dirlo. Cioè. Dai, diciamo. Siamo ben contenti di andare a vederlo in Polveriera, andare a sentirlo e vedere le sue opere, perché... sì, c'è scritto nel programma che esatto, saranno anche esposte una serie di tavole che lui ha prodotto, sarà un percorso espositivo durante tutti i quattro giorni del festival. Sì, quindi farà proprio anche un'esposizione grafica. Esatto. Dunque dei suoi lavori. Bellissimo. Altra cosa che riguarda la poesia, e sarà sempre ecco, di giovedì, questo stavamo dicendo di Costantini, che sarà alle 15 di venerdì 19. Subito dopo, intorno alle 18.30, c'è quello un di Costantini aperto. Quello di Costantini è alle 17. Alle 17. Resistance sarà. Se l'ho detto così, vabbè. Parlavamo alle 15. Resistance di Edoardo Olmi, il libro di poesie, esatto, che dicevamo prima. Bravo, Nico. Alle 17 la presentazione delle cicatrici tra i miei denti di Gianluca Costantini. Sì. E successivamente, sempre per rimanere in ambito di poesia, c'è un tavolo aperto sulle forme della poesia contemporanea. Ci vuoi dire qualcosa, Nico? Sì, a cui prenderanno parte diversi personaggi, sia studiosi, sia reali attanti, diciamo, della attanti, cioè diciamo partecipanti al panorama poetico italiano di adesso, però sì, diciamo da un punto di vista che ci riporteranno sicuramente un punto di vista abbastanza diverso, di opposizione. Infatti, come può essere interessante, si può, è bello perché può nascere un po' di questo nome. Uno street artist. Street artist, quello che faceva le scaglie, le prime poesie a Milano, che comunque intorno a lui ha visto nascere e ha comunque aiutato a far nascere sicuramente in una maniera, con una forza molto importante, un collettivo e un ambiente, diciamo, più che altro poetico, artistico, okay, indipendente, milanese e anche italiano. Insieme a lui si sono fatti negli ultimi anni festival della poesia di strada, oramai alla quinta edizione, itinerante. Il movimento per l'emancipazione della poesia, il MEP, sì, che vediamo spesso qui a Firenze, che è venuto anche qui in radio l'altra volta, ce lo ricordiamo bene. E anche loro in tutta Italia, anche fuori, e con un tipo di poesia riconsegnata alla strada, diciamo un rifiuto netto dei canali istituzionali e commerciali. Vincenzo Romania dall'Università di Padova, sì, professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Molto, un personaggio veramente molto interessante, che io personalmente ho già sentito a Padova tempo fa in una manifestazione di qui. In una manifestazione? Sì. Padovana, di poesia. Ma era un tavolo aperto, mi sembra, anche lì una, sì, discussione. Sì, un tavolo aperto dibattito sulle irruzioni, adesso mi... Ok. Vabbè, tranquillo. Non è un gran problema. Non ti ingustiare. Tanto è passato, non ce ne andrà più nessuno. Poi c'è Simone Burratti, che è un... è il fondatore del blog del letterario Forma Vera e scrive su molti altri blog, sì, di poesia, come Le parole e le cose o insomma altri di questo, okay, tipo, che ci porterà un punto di vista, diciamo, un pochino più accademico di quella che è la poesia, di ciò, dov'è che si fa poesia oggi, cos'è la poesia oggi, appunto. Quasi da critico, di critica, diciamo, penso, no? Sì, un critico, diciamo, un rispetto alle altre, quindi una posizione... agli altri personaggi o entità citate, appunto. Questo è per dire che è un dibattito, un profilo di discussione letterario. Come si dice? Vabbè, che si pone una certa, cioè, posizione comunque, nel discorso, quindi... Mi interessa magari da spettatore, da puro spettatore, e anche un po' da... non conoscente poi della faccenda, mi interessano entrambi i punti di vista, sia un punto di vista più accademico e che si pone da, appunto, come critica, come portatore di una critica sulla poesia che viene fatta, certo, e invece dei movimenti che dal basso o comunque a partire da delle persone si propongono anche una democratizzazione della poesia e anche della critica della poesia. È anche un bel punto di vista come dire, focalizzato sulla struttura dei processi esatto, di studio portato, esatto, appunto da Romania, che dicevamo prima, esatto, di studio dei processi che portano alla formazione di, determinate... queste situazioni, esatto, ma anche all'evoluzione, insomma, delle forme, appunto, della poesia e di fruizione, insomma, anche della poesia. Invece un altro degli interventi che apriranno questo tavolo, no, ci dimentichiamo Jessica Mazzocchi, sì, dell'Archivio dei Rischi Nazionale, anche lei scrittrice in diversi blog letterari, anche lei dell'università, uscita dall'università di Pisa. Ok. E insomma, questi saranno gli interventi che introdurranno, cioè che apriranno questo tavolo, che poi sarà aperto all'intervento del pubblico, insomma. Quindi invitiamo e invitano gli organizzatori a partecipare attivamente. Sì. Ci siamo dimenticati nella stessa giornata, sempre venerdì, una cosa importante. Una cosa, cioè dimenticati, no, in realtà parlavamo di poesia. Ah no, io pensavo un'altra cosa, biologico. Sì, sì, infatti. No, volevo anche citare alle 4, ci sarà la presentazione di un'altra rivista. Sì. Zapruder, che è la rivista di un movimento che si chiama ancora Storia in Movimento, che è un collettivo che è uscito... principalmente all'Università di Bologna e si è sviluppata a Bologna, poi ora è anche in diverse altre città come Roma soprattutto, però tra l'altro fanno questi simposi, ho visto una volta l'anno, in cui aprono la discussione su quelli che saranno i temi che affronteranno. Piccola parentesi, questa è una rivista di principalmente storiografia dei conflitti sociali, ok? Quindi loro vanno a studiare qua nell'arco della storia, quindi senza darsi troppi limiti di tempo, anche se è una rivista che si gioca parecchio sul contemporaneo, ma molti studi partono anche dalla storia moderna. E dove sono stati i conflitti sociali nella storia, quali sono stati gli attori, che risultati hanno portato, e tutto quello che li sta intorno, che ovviamente è enorme, perché poi praticamente tutto è conflitto sociale. E quindi possono studiare, infatti mi sa da 15 anni che esistono, quindi è un trimestrale, quindi ogni 3 mesi cacciano fuori un numero con 20 articoli di approfondimento storiografico o di analisi. Questo qui, bel nome, sì. Si intitola Pazza idea, genere, salute mentale, controllo. E qui saranno presenti due tra le curatrici e scrittrici di articoli, che sono Alice Corte e Claudia Celentano. E questo numero è sulla storia del controllo sociale della normalità, diciamo, quindi manicomi, principalmente manicomi, carceri, manicomi, che spesso in diverse epoche storiche si sono un po' confusi. E quindi è una prospettiva di lungo termine dalla storia moderna su quali sono state le forme del controllo della mente degli anormali, di quelli che sono stati etichettati come anormali. E molto interessante, si parte appunto dai primi manicomi tra il 1500 e il 1600 sono nati, come si sono sviluppati, insomma, molto interessante tutto questo da una prospettiva di genere, inteso come, questo qui è ovviamente un argomento molto molto studiato, soprattutto nella storiografia contemporanea. Sì, sì, sì. E il numero affronta tutto questo tema da un punto di vista di genere, quindi a partire dalle donne e in generale appunto dal genere, cioè come il genere è stato incasellato in determinati canoni di normalità e anormalità attraverso l'uso dei manicomi, del controllo mentale, della chiusura, insomma, della prigionia, anche, certo, della tortura, di tutto, anche sulla stregoneria, dell'isterismo, ma della stregoneria, quindi certo. Si parte da lontano per arrivare poi a temi che ci interessano, cioè molto vicini adesso. Volevo aggiungere una curiosità, particolarità di questa rivista, sì. Zafruder. Non è un nome casuale, Zafruder è il tizio che riprese il punto in cui da cui non è stato sparato a Kennedy, in pratica. Cioè, l'omicidio di Kennedy, Kennedy. Questo Zafruder fece il filmato che riprende il luogo da dove dove si suppose sembra, sì. Si disse che fu sparato, esatto, partì lo sparo, e in quel punto non c'è nessuno, insomma. Quindi non è partito da lì, insomma. Insomma, mi sono spiegato un po' male, però... Bello. Però ci ha lasciato una prova, il creatore della prova vivente, cioè una prova vivente, insomma. La controprova. La controprova, sì. E la sera, Oswald, ragazzi... Oswald non era lì, Oswald non era in quel punto. No, esatto. Sparato da lì e forse non era... Quindi forse non era nemmeno... E la sera di venerdì, attenzione... La sera di venerdì abbiamo presentato... C'è Cesare Basile. Il cantautore catanese Cesare Basile. Anche lì, nonché Gloria, premio Tenco, dico bene? Premio Tenco, vero? Rifiutato. Premio Tenco rifiutato. Premio Tenco rifiutato. Premio Tenco, bravo. Boss. Rifiutato, grande. Ancora grande, sì. Grande. Quindi incredibile, super dai, serata. Super concerto. Esatto. Bello. Dal 21:30 nel mezzo sempre la scena. E potremmo, comunque l'ora non sembra essere troppo presta, ecco, nonostante questa giornata particolare siamo a fine, quasi. Ma... Però dobbiamo ancora raccontarvi un attimo cosa succede nei giorni successivi. E soprattutto c'è Anita qui con noi. Ciao Anita, non hai il microfono ma adesso lo avrai. Ciao. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Tutto bene? Sì, tutto bene. Bene. Tutto, voi, tutto bene, sì. Grazie. Allora vado con la sigla. Vai. Sigla. Mitici. Eccoli. Dunque, oggi Peppino Impastato e di Radio Out. Peppino Impastato, come sappiamo, era un giornalista, attivista e poeta siciliano. E proprio il 9 maggio ricorre l'anniversario della sua scomparsa. Infatti nel 1978 fu assassinato dalla mafia. Nonostante provenisse da una famiglia mafiosa, presto iniziò un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 76 costituisce il gruppo Musica e Cultura, svolge per lo più attività culturali e più tardi, qualche anno dopo, in una piccola casa nel centro del paesino, fondò Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i crimini e gli affari mafiosi e dà soprattutto voce a tutte le fasce sociali meno garantite. All'esterno, sul balcone, è famosa la scritta Radio Out, giornale di controinformazione radiodiffuso, 98-800 MHz. Dal primo di maggio vengono mandati in onda due notiziari, due volte al giorno, oltre a tanta musica classica, musica rock e pop, servizi speciali su temi più scottanti di attualità, rassegne stampa sugli eventi di maggior risalto, nazionali e internazionali. E in genere era proprio Peppino ad occuparsi di queste rassegne, anche di molti speciali. Peppino sosteneva l'importanza dello strumento radiofonico nella lotta politica, la controinformazione era fondamentale. Sono gli stessi anni in cui ci furono gli scontri di Bologna, radiografati da Radio Alice, e Peppino era sempre alla ricerca di nuove strade. Era un uomo che aveva un'ideologia in cui credere e per la quale lottare, e anche attraverso un coerente comportamento personale, non incline a compromessi, ma teso verso un rapporto umano di simpatia, di scambio e di scontro. Aveva rifiutato di continuare a studiare malgrado fosse iscritto in filosofia, perché non accettava i contenuti accademici, lontani dalla vita e dalla realtà, eppure leggeva di tutto. Aveva anche rifiutato di lavorare, perché lavorava politicamente. Poteva sopravvivere con il poco di cui disponeva e in ogni caso avrebbe potuto continuare a sentirsi libero. Nel 78 si candida alle elezioni comunali e nella notte del 9 maggio, dopo vari avvertimenti, venne assassinato. La scelta del nome Out era un richiamo all'autonomia operaia di Scalzone, Negri, Piperno. Anche se ufficialmente si diceva che Out fosse un'indicazione per una scelta alternativa al problema esistenziale dell'out-out di Kierkegaard. Okay. Su cui non ci addentreremo in questa puntata, ma magari nella prossima, un approfondimento di Nico su Kierkegaard. Dopo il festival di letteratura facciamolo. E concludo leggendo una sua citazione. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi, sorti all'improvviso con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di com'erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre. Grande Peppino. Grazissime. Ma sottofondo perché ci lascio un po' di magia. Non ci sia questo qua. Ci sarà un salto. Questo fai sì. Sabato 20. Sabato 20. Tante cose. Anche lì, giornata lunga. Dimmi. No, sì. Caro. Avevo una delle cose che ci sarà. Si sente. Sì. Che ci saranno durante il sabato. Sì. Sarà la vedrà sempre la partecipazione di Ash dell'Alisema e Sonetti. Rappresentato un libro scritto da collettivo Metal M. Antari. Presente, ci farò modo questa, con questo intervento di, perché affrontano etarie di varie storie che hanno raccontato sia loro nel, con i libri che hanno potuto leggere, e gli ha scritto. Io una cosa che volevo leggervi era proprio uno del un libro di Alberto Prunetti che si intitola Amianto, una storia operaia, che è appunto una storia operaia. Niente, leggicela, vai, ti ascoltiamo. La leggo. Ma che freddo fa. Avrei voluto che questa storia non fosse davvero accaduta. Come si dice, frutto della fantasia d'autore. Invece è la realtà che ha bussato alla porte alle porte di queste pagine. L'immaginazione ha riempito i buchi come uno stucco di poco pregio e ha ridisegnato certi episodi per meglio riprodurre la vicenda di una vita e di una morte, di una biografia operaia. Il racconto dovrebbe tenere come un raccordo di tanti tubi diversi. Lui lo diceva sempre, mettici il canapone, regge più del teflon. Stai solo attento a rispettare il senso della filettatura e lega il tutto con un dito sporco di mastice verde. Poi stringi con forza, ma senza cattiveria. Non deve perdere. Ho fatto così con la penna. Ho cercato di rispettare la filettatura della storia, senza forzare il passo degli eventi, senza strozzature. Ho usato il mastice della fantasia e stretto senza cattiveria, ma con decisione, l'ordine del discorso. Non gocciola. Ci ho messo un cartone sotto e le lacrime si sono asciugate. Bisognava saldarle così. L'idraulica dei grandi impianti e la memoria degli uomini che hanno unito chilometri di tubi e acciaio per una vita. Per portare la pressione del sangue nei canali dell'esistenza. Per pomparla nei serbatoi della memoria e vederla gocciolare giorno dopo giorno a fertilizzare una pagina. Lui indossa una tuta verde e un paio di guanti scamosciati. Piega un ginocchio appoggiandosi sulla terra ghiaiosa del cantiere. Impugna la mola. Con un colpo di mazzuolo sulla testa di un cacciavite dall'impugnatura smussata, in direzione opposta al senso della rotazione, allenta la ghiera che fissa la spazzola e inserisce un disco a taglio. Poi, con il pollice guantato, preme l'interruttore verso l'alto. La lama comincia subito a girare alla velocità di 10.000 giri al minuto. Avvicina il disco al tubo grigio. Al contatto della lama il rumore cambia. Si trasforma in un urlo metallico, seguito da un'esplosione di scintille e dalla proiezione verso l'alto di una doccia secca di particelle fibrose e irregolari. Sono piccoli dardi cristallini, saette invisibili, capaci di scendere lungo l'esofago, di calarsi nei polmoni e rimanere attaccate alla pleura per 20, 30, anche 50 anni, producendo una ferita mal cicatrizzata che l'organismo non riesce a debellare e che avvia un processo di degenerazione cellulare, un tumore. Lui distende una prolunga industriale che si snoda lungo il perimetro di una cisterna piena di idrocarburi. Il terreno è impastato d'olio denso e vischioso, d'un nero virato al cobalto. Collega la saldatrice al cavo elettrico, fissa la pinza a un elemento in metallo, inserisce nella seconda pinza un elettrodo, poi l'appoggia a terra. Impugna con la sinistra una maschera da saldatore e se la avvicina al volto. Un altro operaio afferra un telone grigio sporco e lo srotola sopra di lui. Adesso è completamente al buio. Con la destra impugna la pinza, avvicina l'elettrodo al metallo. Scocca la luce, violenta, ammortizzata dalle lenti affumicate della maschera. Scintille fioccano dalla punta dell'elettrodo che si consuma velocemente, sciogliendo e raggrumando metallo altro metallo. Quando l'elettrodo è completamente e non è facilmente incangiare a picco, rompe la attorura. Lavoro pericoloso, centimetri a dio. La scintata di inne può portineria, per questo usare porten perché sa leggibito. Lo langono qui e toniero con e pianto e restante l'eletta, pianto ne sempre. Andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione ruge, il nord non... Malinconi, rani nei camini, le rose sui balconi. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti, che infernale invenzione. viva la ricchezza mobile, andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, lavorare, lavorare. Andare, camminare, lavorare, il passato nel cassetto chiuso a chiave. Eccoci. Ok. Sì, e questa è una. Ho scelto questa canzone che tutto il libro da cui ho letto l'introduzione, ho letto il primo, l'incipit, è accompagnato da. I titoli dei capitoli sono proprio i titoli delle alcune canzoni di Piero Ciampi. Dunque, questa andare a camminare a lavorare era abbastanza. Pregnante, abbastanza sì. Centrata come cosa. E ora niente, non sarà presentato questo libro, ma altre cose da Brunetti. Era per far capire il tono. Sì. Insieme a loro probabilmente si uniranno i Clash City Workers che sì, sono, che sono prima, anzi. Sì, che presentano, che sono sì. Proprio nel panel precedente. Sì. Alle 5. Alle 5 si presentano Dove sono i nostri, che è il libro che hanno scritto, un'inchiesta sul mondo, diciamo sul mondo del lavoro, cioè è un'inchiesta su appunto sul lavoro, classe e movimenti nell'Italia della crisi, quindi negli ultimi anni come si è strutturata, diciamo, in Italia la protesta da una parte, sì. Per quali motivi, quindi la disoccupazione, eccetera, eccetera. Prima però ancora, stiamo andando all'indietro, facciamo così, andiamo all'indietro, alle 16 ma sì. Ci sarà la presentazione di a cura di Cortocircuito e Marx Pedia, del libro Rosa Luxemburg, marxista e rivoluzionaria, mentre la prima ora, del volume ibrido, Mark, che cazzo vai dicendo? Punto interrogativo. E così. Di Autori Tritati, che è un collettivo in un altro chigiano. Marco dice è un'arte di T2, mi sembra scritti autori per tutti che sono dello Fabio Marciani, è una produzione e competenza molto. E saltiamo mente a io di curatore Edoardo Olmi e in Cardona. Massimo, mi sembra. Massimo, ok. Forse no. L'aperitivo. Alle 20:30 sarà organizzato e preparato dal gruppo, anche alla sessione del festival di Tattoo di Chiostri Ribelli. Chiostri Ribelli e sarà appunto un benefit, il ricavato andrà proprio ad autofinanziare questo festival che si terrà invece dal 1 al 4 giugno. Quindi due settimane dopo, sicuramente due fine settimane parleremo. Ora non vi diciamo niente, se no ci confondiamo le idee. No, sì. Concluse, si conclude la giornata lo spettacolo Dare la parola. Sopracitato Ivan Tressoldi, sì. Che sarà accompagnato da un live painting di Piger, che è un artista visual artist. Chiamiamolo così. Sempre di Milano, mi sembra. Sì. Non lo dico perché non lo so. Proviamo, che proviamo a Milano, ma mai si fa. Correggeteci su Radio Wombat. Scusateci. E accompagnamento musicale del grande Lorenzo Ruggeri, del celebre. Sì. Come siamo Session Man? Mi piace. Guarda, piacerà sicuramente. Maglietta Session. Alle 16, quindi non alle 15, le 16. Almeno la domenica ci sarà un'ora in più per buttare giù la frittatina con la cipolla fresca. E il cumino, esatto. Quindi dico tutti i modi possibili, dicevi. 9 saggi attraverso il fantasy, dirò fantasy. Potremmo aprire un bel dibattito. Fantasia. Via. Esatto, vabbè, quindi ne parleremo. Ah, va bene, comunque. Kierkegaard più inglesismi. Va bene. Ok. Sono saggi che affrontano appunto il genere letterario del fantasy che fondamentalmente era una tavola rotonda fra appassionati di fantasy e fantascientifico, perché comunque a volte si uniscono e si affiancano, e poi questi interventi sono stati rielaborati e poi ampliati pubblicandoli su 400 file not found e poi successivamente raccolti in questa cosa. 404. Cosa ho detto io? 400 file. Su 404 file not found. Sono 4 file personalmente piace e non piace, però in effetti ha fatto un sacco di successo. Piace, e quindi un sacco di soldi. Eh? Anche un sacco di soldi. Poi. Un botto di soldi penso abbia fatto. No, speriamo per lei, sì. Certo, sì, certo, sì. Ma vivo. No, ma la tipa a posto, vi devo dire. Sì, grazie, allora. Seguitoci. Ci ha dato l'ok, dai. No, questo mi interessa molto, io anche un po' fan del genere. Bene. Parteciperò. Poi? Dopo? Dopo, alle 17, un altro tavolo, diciamo, di dibattito, di discussione. Con su anzi, scrittura collettiva, informatica e attivismo. E un tavolo aperto. Sì, con ci saranno Daniele Gambit del progetto MAZ, Jessica Manzotti, già citata prima. E il progetto OCA, portare l'esperienza, esatto, del progetto OCA, che è un'altra. Sì. Il laboratorio per un'altra città, anch'esso già citato prima, come esempio sia di scrittura collettiva sia di attivismo, poi anche e soprattutto digitale. Comunque, è un tavolo, cioè è una discussione molto aperta, nel senso che... sì, questi sono gli interventi introduttivi. Esatto. Che danno il là il, alla, il via, esatto, esatto, al dibattito. Come, al... Tanto quanto la, il tavolo sulla poesia, il pubblico è invitato a... venire con intenzione partecipare, sì, a partecipare. Sì, sì, a proprio porre domande e vedere anche un po' appunto le varie voci come e a portare la propria esperienza, certo. No, perché è evidente, mi sembra almeno, che ci siano moltissime, moltissime esperienze di all'interno del mondo dell'autoproduzione, diciamo, negli ultimi anni, che hanno sviluppato sia interesse nelle forme di scrittura collettiva, sia nelle forme di attivismo letterario, culturale e anche informatico. Quindi molto, molto, molto interessante, anche in vista poi dell'HAC Meeting che si svolgerà in Val di Susa, quindi Val di Susa, anche questi, sì, temi che iniziano, cioè iniziano, continuano e sempre più si intensificano. Per finire, l'ultima presentazione, Vanni Santoni, La stanza profonda, il suo ultimo libro. Sì, che evviva. Ci racconta un po' questa subcultura dei giochi di ruolo, del mondo, sì, del... Esatto. Proprio dei giochi di ruolo, cioè... niente. Sì, quello. E poi la giornata ci sarà il concerto aperitivo. Sì. Garantiscono a prezzi molto popolari, sarà, sì, l'autofinanziamento per il festival. Certo. Ricordiamo che il festival è tutto autofinanziato, e sì, non c'è il prezzo, è tutto gratuito, gli eventi sono a ingresso gratuito, quindi... quindi tranquilli. Tranquilli, venite sciolti. Sciolti. E la serata invece, esatto, vedrà... Fumo Fonico, un collettivo di slam poetry che apre i microfoni. Fiorentino, no? Sì. Sono, geograficamente, sì, diciamo fiorentino, va bene. È un nuovo collettivo di slam. Un nuovo collettivo, sarà la prima serata forse addirittura? Beh, sa di sì. Ok. No, c'è fu una, c'è già stato qualcosa forse allo Spazio Yam. Allo Spazio Yam, è ah, vero. È vero, è vero. Spazio Yam. Con, fu molto... Non c'è andato, non so. E no, il... io no. Nemmeno io. Il, tra l'altro, Fumo Fonico sulla propria pagina Facebook, o comunque contattandole per mail, o ci sono anche telefoni se proprio vi serve. Chiama un appello, cioè fa un appello per dare forza a questo microfono aperto, nel senso che la slam poetry è un po' anche una battaglia, nel senso ci si mette un po' in gioco, ognuno porta la con la propria voce, porta dei contenuti, quindi il collettivo organizza la serata, ma poi la serata è animata da chi partecipa, e appunto c'è un appello per partecipare anche iscrivendosi con le proprie, con i propri pezzi, con le proprie... sì, loro chiedono di produzione, mandare una... chiede già l'iscrizione, sì, via internet per già organizzare un minimo la, poi la cosa. Poi chiaramente sarà possibile anche iscriversi in loco e partecipare. Per chi ulteriormente restasse fuori o comunque non sentisse di partecipare a una vera e propria slam poetry, cioè una vera battle fra... c'è quasi una battle fra rapper, non so come... tipo, sì, conosco, però poesia, anch'io non ho... comunque, l'energia è la medesima. C'è un altro spazio aperto su, dopo, a termine di questo open mic, che sarà, vedrà il microfono aperto, sempre lettura libera, con sonorizzazione di Machine Funk. Machine Funk, sì. E il palco a disposizione per concludere in bellezza. In bellezza questo festival. Esatto, festeggeremo alla grande. Quindi, riassumendo, allora giovedì bellissimo, venerdì bellissimo, sabato bellissimo, domenica incredibile. Perfetto. Quindi abbiamo capito che noi probabilmente andremo, anche perché ripetiamo un'altra volta, Radio Wombat ci sarà, ci sta, trasmetterà tu quello che... però insomma, fatevi prendere la curiosità e venite, sì, andate direttamente con Verera a questo giro, il resto del, sì, tempo ascoltate Radio Wombat. Sì. Che ore sono? Tardino, direi. È tardino. Ora? È stata una puntata, io stranamente intensa, sono abbastanza provato. Sì, e vedo stanco, è esatto, vi lasciamo con la sigla direttamente. Noi ci sentiamo sicuramente lunedì prossimo. Registreremo dei contenuti, quelli che ci piaceranno di più, durante il festival. Sì, e sì, li sì. rimanderemo. Sì. Avremo magari anche un delle parti di interviste, anche se saranno caricate poi in podcast, penso quello che produrremo in quei giorni. Comunque ci sentiamo in diretta lunedì prossimo con anche un resoconto di quello che è successo e con la nuova settimana che poi inizia, perché poi tutto questo non finisce mai. Ma noi di Folle Poveri ci siamo ogni lunedì alle 16:30, quindi a settimana prossima. Via. Wombat. Radio Bomba. Fidarsi di un autista d'autobus nudo.